quali sono? Sì. Le organizzazioni politiche dal basso che ho attraversato e che non hanno funzionato granché sono Altra Agricoltura e l'Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare. Questo però dipende, sono tutte brave persone, non è mai una questione di, come dire, però è proprio l'orientamento, è il modo di fare politica. Allora, quello di controllare per egemonizzare, che è un po' l'atteggiamento leninista, insomma, che arriva veramente da entrare dentro un'organizzazione o fare entrare dentro le persone in un'organizzazione e controllarle, farle andare dove vuoi tu. Invece una partecipazione reale io per esempio non l'ho trovata, fuori da un'una di meno, io purtroppo nella mia esperienza, che non è grandissima magari, no? Però qualcosa pure l'ho fatta, cioè fuori da quel contesto io non ho mai avuto nessun tipo di... non ho mai visto una partecipazione in cui tutti potessero veramente dire la propria e cambiare il corso anche della discussione da questo punto di vista. Come anche le organizzazioni strettamente ecologiste, di cui sono stata parte super attiva, il discorso sulla contadinanza arriva ma fino a un certo punto. Perché poi sono sempre movimenti urbani, profondamente urbani, anche il femminismo in una di meno è urbano. Quindi si fa fatica a parlare di ambiente o di terra. Però quale sperimentazioni ci sono state? Abbiamo fatto laboratori di agroecologia con le compagne e i compagni, non una di meno, e di altre organizzazioni, quindi abbiamo fatto cose. Poi il Covid ha un po' rotto tutto, però anche nelle organizzazioni ecologiste, allora finché la contadinanza può arrivare a dire qualcosa sul tema ambiente, il che è giustissimo, va bene, però io un po' mi sono sentita un po'... spinta avanti solo perché ero donna, no? Il tokenismo si chiama, cioè tu prendi una persona, una realtà, la butti in un discorso perché è utile a quel discorso, ma fuori da quel discorso è come la moneta del videogioco, non vale niente, no? Quindi mi sono sentita a tratti un po' così. Era un apporto che io ho dato, e con questo io non sto demonizzando nessuna di queste organizzazioni, perché è un problema mio, io volevo altro. Volevo altro e volevo che fosse una partecipazione meno guidata, meno egemonizzata, più allargata. Quindi se ti dovessi dire, anche in queste strutture in realtà c'è bisogno di fare un grandissimo lavoro sul tema della partecipazione e sull'annullamento del verticismo, perché altrimenti è solo performance e a me questa cosa non mi piace. E invece hai fatto parte, diciamo, della Buona Terra, ce l'hai raccontato, di altre reti agroecologiche o di economia solidale? Allora, di economia solidale no, c'è solo la Buona Terra, mentre abbiamo messo su, e lì sono stata una delle fondatrici, un altro progetto di rete che si chiama Terra e a Capo, però devo dire la verità, funziona pochissimo. Questo dipeso dal fatto che eravamo tre produttori e un cittadino. Noi volevamo cercare di puntare sull'alleanza, non necessariamente di acquisto, no? Tra chi produce e chi invece fa politica attiva sul territorio. Ero l'unica donna. Se devo essere molto sincera, la cosa è finita così, che facevo io tutto il lavoro. A un certo il lavoro di tutto, stendere gli accordi, tutte le carte, cercare di organizzare gli eventi, ero completamente da sola a fare tutto. A un certo punto ho detto, sentite, io non sono né vostra madre, non sono né la vostra segretaria, ho detto o ci dividiamo il lavoro perché il lavoro di cura si condivide, oppure questo progetto muore qua. Quindi ci sono state alcune difficoltà interne, stiamo andando avanti, però devo dire che il motivo per cui non funzioniamo bene adesso è una responsabilità tra virgolette mia, nel senso che io sono meno forte dal punto di vista, cioè io ho bisogno purtroppo di lunghi periodi di riposo, artrite reumatoide, fibromialgia, più una serie di... che sono molto peggiorate, cioè io soffro di dolori lancinanti a tratti, quindi non veramente... e di grandi stanchezze che sono quelle tipiche delle malattie oncologiche. Non lo dico perché, ovviamente per impietosire nessuno, però... personale politico e quindi una situazione di malattia, no, legata al lavoro in agricoltura che non ti consente più di andare a lavorare nei campi. Allora, Libera è da sola, Anna Maria Talento che sta a Roccarainola è da sola, Anna Maria è stata male, io non conosco la storia personale di Pure Libera. sono stata male. E che hai fatto quando tu sei stata male? Ferma, Fermo. fermata. E allora uno non può campare più. Allora per questo io dico, noi non siamo soggetti di diritti, no? Al massimo sono destinatari di finanziamenti se presentiamo carte su carte, se mostriamo di poter assolvere economicamente a certi Penso debiti che clandestina oggi comunque. ancora. Allora io dico, no? E in un progetto di rete anche. In cui queste cose invece dovrebbero essere, il lavoro di cura di base dovrebbe essere condiviso. Non ci deve essere il super compagno che parla per tutti e tutte e che si assume, io ho la funzione politica, no? La funzione politica ce l'abbiamo tutti e la funzione di cura ce l'abbiamo tutti, che è politica in sé. Quindi se anche in un progetto di rete dal basso certe cose non vengono gestite collettivamente, per me non ha molto senso. Considerato il fatto che io veramente ho meno energie anche da dedicare all'impegno politico perché mi stanco molto e i tempi nella politica li dettano ancora gli uomini perché non c'è niente da fare, cioè una donna che ha dei tempi di cura più lunghi, tra figli, arresto e presto, eccetera, eccetera, ha meno tempo da riservare alla politica e allora bisognerebbe aspettare quei tempi piuttosto che dire vabbè, andiamo avanti. Mi sembra tutto chiaro. Tornerei alla domanda che aveva fatto Libera perché l'avevo promessa. Che in realtà è un po' anche una questione che abbiamo incontrato in diversi contesti, no? Trasversale, che è questa la crisi di riproduzione dell'agricoltura di un certo tipo non è solo una crisi di riproduzione nella sua quotidianità, ma è anche di riproduzione generazionale, no? E quindi, diciamo, quello che diceva Libera è parte di una risposta al problema che poi abbiamo anche sviscerato nell'intervista. Come, secondo te, ecco, facciamo conto che quello che noi abbiamo tirato fuori sia una tendenza generale, non lo è perché sono degli estratti qualitativi. Ma se la tendenza fosse che molte delle esperienze virtuose che ci piacciono sono legate a delle persone e sono in via di estinzione, come si risponde a questa cosa, cioè a questo problema? Diciamo, è possibile immaginare una risposta collettiva? In che cosa, cioè, che cosa puoi fare tu in questo? Cosa ti vedi fare tu in questo? Cosa potrebbero fare altri? Guarda, domanda da $1 milione questa qui. Allora, io prima ti dicevo che è una staffetta, cioè io non posso, per quanto io mi sia impegnata non solo in famiglia ma anche all'esterno, no? Però io poi mi rendo conto che è un'azienda agricola che è individuale, cioè nella misura in cui è gestita da uno o due persone, perché o la terra è poca, o quelle sono le forze, o quello è, insomma, per molti altri motivi, non ha molte speranze di essere un modello strettamente ripetibile. E quindi scientifico. Perché la scientificità poi di un'esperienza, tra virgolette, o per quantomeno, è basata sulla ripetibilità di quell'esperienza stessa, no? Quindi a volte noi tendiamo anche a sfuggire da una certa casistica, da una certa statistica, perché sono esperienze molto molto personali. Devo essere sincera, io non mi preoccuperei nemmeno troppo di questo fatto che non sia poi così strettamente ripetibile, perché io. Proprio perché non guardo all'omogeneità delle esperienze sul territorio, e non guardo nemmeno ai grandi numeri. Cioè, io penso sempre che in realtà anche la resistenza di uno o una sola, e anche se rimane chiusa lì, se è capace almeno per un certo periodo di aprirsi all'esterno e di essere, come nel caso di Libera, o nel caso di Anna Maria, o nel caso mio, parlo di donne perché magari parliamo di donne. Comunque riconoscibili, comunque hanno creato un precedente, cioè alla fine abbiamo creato una possibilità che le persone possono cogliere o anche non cogliere. Tutto sta alla libertà anche personale, no? Di voler accedere a determinati strumenti. Cioè, la libertà fondamentalmente è quello che mi ha fatto aprire l'orto conviviale. Cioè, non è stata una necessità strettamente economica. Volendo, io ero abbastanza skillata da potermi presentare in un'altra compagnia di navigazione anche a 45 anni e essere assunta. Io volevo fare un'altra cosa, volevo essere libera di gestire il mio tempo e le mie cose. Questa libertà, che è alla base dell'esperienza dell'orto conviviale, forse deve essere lasciata anche agli altri. Di fare le cose come vogliono loro, tanto i piccoli agricoltori, secondo me, i contadini, anzi c'è una ricontadinizzazione nel mondo. Siamo molti più di quanti ne eravamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in cui con l'industrializzazione, eccetera, siamo scesi drasticamente, come dice Petrini, in slow food. Secondo me non c'è bisogno nemmeno di pontificare su quello che sarà. Abbiamo fatto tutto quello che era umanamente possibile fare. Abbiamo dato vita a reti, esperienze di ricerca, cioè Libera sta qua. Dopo tutto quello che ha fatto, Libera sta ancora qua a parlare insieme a me. E questa cosa, secondo me, ha già valore in sé. Allora, finché ci sarà un Vincenzo, un Giulio, una rete La Buona Terra, piccole esperienze, sono le piccole esperienze che cambiano il mondo, non sono le grandi cose ripetute nel tempo. Ognuno farà quello che potrà fare. Secondo me, aver tracciato una strada, l'abbiamo aperta un po'. Gli altri ci si possono infilare e ci si infileranno, anche se non riusciamo a essere, come dire, casi studio. Bah, mi vedo senza la parola. Ci fermiamo un attimo perché ci sta.